L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'altro pianeta, quello della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. Oggi parliamo di trasporti e in particolare di merci. Wikipedia può essere fenomenale. Nel mio caso ho digitato trasporto ferroviario ed ecco la precisa risposta. Per trasporto ferroviario si intende lo spostamento di persone e o cose da un luogo ad un altro per mezzo di un sistema specializzato comunemente chiamato ferrovia, utilizzando un mezzo di trasporto denominato treno. C'è il trasporto di persone, ma anche di beni per mezzo di treni merci formati da carri ferroviari. Le tipologie dei carri merci si possono distinguere tra carri per trasporto generico chiusi o aperti, carri con sponde o pianali e carri specializzati come porta container o per trasporto automobili e così via. Ecco, Wikipedia è semplice e chiaro, ma anche categorico, come quando afferma: il trasporto ferroviario è il mezzo di trasporto meccanico via terra più efficiente dal punto di vista energetico. In genere, a parità di tonnellate trasportate o di numero di viaggiatori trasportati, un treno richiede dal 50 al 70% meno energia rispetto al trasporto su strada. Naturalmente non è solo Wikipedia a dirlo, ci sono fior di studi sul tema e il risultato è sempre lo stesso. All'ambiente conviene il treno. Eppure in Italia la fetta di merci che vengono trasportate su rotaia è sempre di meno. Se la media europea è del 12%, con punte del 14-16% per Francia e Germania, nel nostro paese la quota è scesa al 6-7%. È scesa perché 3 anni fa era superiore. Ad avvantaggiarsene sono state altre modalità di trasporto, soprattutto quello su gomma. Non deve stupirci però. Poco più di un mese fa, ad esempio, il titolare del Ministero dei Trasporti, Altero Matteoli, ha dichiarato in un'audizione alla Commissione Lavori Pubblici di non credere nel trasporto merci su ferro e quindi di non ritenere utile o possibile il suo rilancio. Parole che hanno scandalizzato e preoccupato gli operatori del settore, ma che dovrebbero scandalizzare anche noi, visto non solo la necessità di salvaguardare l'ambiente, ma anche le battaglie fatte per imporre o per opporsi alle reti transeuropee ad alta velocità ferroviaria. Chi ha la maggior fetta del trasporto merci in Italia è naturalmente Trenitalia Cargo, il cui partner per la logistica del trasporto è Italia Logistica, per la quale Riccardo Brunelli è il responsabile direzione trasporto e logistica multimodale. Un po' di anni fa, diciamo 5-6 anni fa, le aziende vicino ai punti di carico ferroviario o addirittura le aziende raccordate trovavano, diciamo, nella soluzione di logistica ferroviaria una grossa risposta, nel senso che comunque potevano caricare dai loro hub, dai loro magazzini, la merce nei carri ferroviari, dopodiché questi viaggiavano per l'Italia e quindi a valle venivano terminalizzati e consegnati. Un ridisegno, una riperimetrazione del perimetro ferroviario ha in questo momento, diciamo, allontanato un pochino di più il punto di carico dall'hub ferroviario e noi cerchiamo con il nostro sistema di logistica di avvicinarci o attraverso terminalizzazioni via strada oppure, e qua diciamo un po' è la novità del progetto di cui in questo momento siamo partecipi, allo sviluppo di un'intermodalità diretta. Insomma, i tempi sono cambiati, non si carica più direttamente sui treni, ma bisogna raggiungere degli interporti dai quali poi la merce verrà caricata e spedita. Prima e dopo il viaggio in treno, il trasporto può avvenire su gomma o anche via mare. Si chiama trasporto intermodale proprio perché usa modalità diverse. Ma che cos'è questa intermodalità diretta di cui parla Brunelli? Terminalizzazione con cassa mobile, quindi la merce chiusa, garantita e sigillata dal cliente su un sistema ferroviario, terminalizzazione a valle su un hub ferroviario, quindi su uno smistamento, su uno scalo e distribuzione. Oggi noi abbiamo il nostro hub principale che è Bologna Interporto, sui punti di carico dal nord verso sud per, diciamo, il traffico tradizionale, quindi i carri chiusi. E abbiamo questo progetto su Rivalta Scrivia, che diciamo è un progetto nuovo, innovativo per clienti, tra cui oggi caratterizzato con Leroy Merlin come gruppo, che carica casse mobili, 20-25 casse al giorno verso il sud dell'Italia. Insomma, da più di un mese ormai la merce Leroy Merlin, la catena francese di grande distribuzione nel settore del bricolage, non arriva più via gomma ai punti vendita, ma in casse mobili, che sono simili ai container. Dal polo di Rivalta Scrivia, in provincia di Alessandria, dove c'è il deposito di Leroy Merlin, queste casse mobili raggiungono l'interporto di Bologna e infine Roma. Tutto in treno, se non l'ultima tratta della consegna ai negozi. E qualche settimana dopo è partito, per la stessa catena di grande distribuzione, anche il trasporto ferroviario verso la Puglia. Il risparmio, dicono dalla Leroy Merlin, sarà di 3.000 camion l'anno. Una scelta lodevole che, se non progettata bene, però, può essere anche economicamente svantaggiosa, ammette Brunelli. La gomma ha il vantaggio che di fatto da casa del cliente arriva a destino. La tratta ferroviaria ovviamente è un'intercetta che, per quanto poi più economica sia, ha bisogno di essere confrontata con un pari costo, con delle spezzate che sono le terminalizzazioni, quindi a monte e a valle, che sono la presa dal deposito cliente alla consegna a destino, e quella è un'incidenza non banale. Se un'azienda valuta il loro sistema di logistica, e quando parliamo di logistica molto spesso confondiamo la logistica con il trasporto, e quindi il loro sistema di trasporto lo valuta sulla la corsa alla consegna, e quindi dei ritiri oggi per arrivare domani in consegna e al prezzo più basso, la ferrovia è assolutamente fuori gioco. Un progetto ferroviario più complesso, più strutturato, per portare grandi masse di merce verso i punti di destino, magari con un filino più di tempo, perché poi i tempi sono anche quelli del sistema Italia, degli Appennini, delle gallerie, dei vincoli, dello Stretto di Sicilia e tutto quello che ne consegue, di fatto magari ha queste piccole defaianze, ma alla lunga ha i vantaggi anche nella certezza del sistema. E allora sentiamo la Leroy Merlin. L'obiettivo dichiarato è la sostenibilità ambientale, ma che svantaggi ci sono in questo sistema? Marco Lattuada, responsabile logistica. I vantaggi sono assolutamente di carattere ambientale. È evidente che a fronte di vantaggi ci sono degli svantaggi legati soprattutto alla flessibilità. Il treno ha degli orari, il treno non aspetta, deve partire, mentre con la gomma si è più flessibile, quindi in caso di picchi o di ritardi, di potenziali ritardi in fase di carico in un deposito, un camion può aspettare, il treno no, quindi abbiamo dovuto rivedere un po' l'organizzazione di deposito. Per quanto riguarda l'aspetto economico, sulla tratta media, quindi su Roma e Lazio, non abbiamo dei vantaggi. Piccoli vantaggi si possono avere invece su tratte più lunghe, quindi Sicilia, perché comunque sia oltre i 700-800 km ci possono essere anche dei vantaggi dal punto di vista economico. Le aziende che riescono a utilizzare i treni per trasportare le proprie merci, perché purtroppo non c'è posto per tutti quelli che lo vorrebbero fare, ecco, quelle aziende sono in buona misura soddisfatte, ma questo non significa che i problemi non ci siano. Sicuramente c'è sempre un minimo di incertezza su quello che può essere il viaggio, nel senso che ci possono essere dei ritardi, ci possono essere rischi di sciopero, ci possono essere delle manutenzioni su delle tratte ferroviarie, ed evidentemente si dà giustamente priorità alle linee dei treni, dei pendolari, piuttosto che quelli delle merci. D'altro canto ormai anche le autostrade non garantiscono nulla. E poi soprattutto quando si deve passare o l'Appennino o quando si deve andare su determinate tratte che sappiamo benissimo come sono, tra virgolette, pericolose dal punto di vista traffico, è evidente che delle certezze, come giustamente dice lei, non ci sono neanche via gomma. Se Leroy Merlin ha iniziato da poco la sua avventura ferroviaria in Italia, l'azienda Fonti di Vinadio, che è nota soprattutto per il marchio Acqua Sant'Anna, da anni si affida ai treni. Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato. Siamo partiti proprio fin dall'inizio a utilizzare il trasporto su treno, e lo utilizziamo in maniera così particolare. Usiamo il treno, oltre che come trasporto, lo usiamo come magazzino mobile, per cui carichiamo i 16 vagoni in giro per l'Italia, viaggiano e per noi servono come magazzino viaggiante. Noi distribuiamo da Cuneo per tutta Italia, carichiamo questi vagoni e man mano che vanno a destinazione cerchiamo di vendere già tutto il carico, in modo che riduciamo quello che è il magazzino, la merce è più fresca e solo per la parte residua viene trasbordato in un magazzino. Quindi il treno è funzionale e per l'acqua anche comodo, ma non senza difetti per chi produce in aree periferiche del paese. Da una parte che in Italia non ci sono i magazzini raccordati, per cui bisogna partire da Vinadio, arrivare a Cuneo e trasbordare la merce, e poi c'è sempre la difficoltà di trovare le tratte libere, i vagoni disponibili sulle tratte tipo Cuneo, che è una tratta un po' periferica, e non la puntualità del treno. È difficile sapere quando parte, ma è difficile sapere con puntualità quello che arriva. Logicamente sarebbe più importante avere la libertà di scegliere più compagnie, in modo che ci sia più concorrenza e si ottiene un miglior servizio e un miglior prezzo. Bertone però non è convinto che il trasporto ferroviario salverà il mondo. Forse, dice, sono più utili le buone pratiche aziendali. Il trasporto è importante, ma tutti anche i processi con cui facciamo la bottiglia, con cui lavoriamo nelle fabbriche, deve essere più verde possibile. Abbiamo fatto tutto il capannone in legno, cerchiamo di fare una bottiglia quadrata in modo che ci sia più bottiglie sullo stesso spazio, il 25% in meno di trasporti, usiamo laser al posto degli inchiostri, abbiamo inventato la prima bottiglia al mondo che non è più di origine da petrolio. Anche la confezione che avviluppa le 6 bottiglie non è più di petrolio, non è più un film, ma diciamo che sono le bottiglie che si incastrano, è una piccola reggetta di origine anch'essa di materiale biodegradabile, in modo che non utilizziamo più petrolio e plastica, e neanche energia per termoformarla. E visto che Bertone ci ha distolto dai treni indirizzandoci verso le buone pratiche, eccone una che arriva dalla Fiera di Roma e che ben si colloca però nel contesto dei trasporti, perché se quell'ultimo chilometro su gomma da fare dalle ferrovie ai negozi di cui parlavamo prima lo facessimo su mezzi elettrici, ecco, l'ambiente ne godrebbe ancora di più. Che cosa succede quindi a Roma? L'azienda Green Utility del gruppo Gesenu ha approntato un sistema per alimentare veicoli elettrici direttamente con energia solare in tutte le ore del giorno. Carlo Notola Diega è l'amministratore delegato Gesenu. Noi abbiamo presentato un sistema nuovo per trasferire l'energia fotovoltaica ricavata dai pannelli fotovoltaici direttamente al circuito che alimenta le biciclette assistite e le macchine elettriche per i servizi interni alla Fiera di Roma. Questo grazie ad un accumulatore di energia che consente quindi di avere un ciclo continuo nell'accumulo e l'utilizzo dell'energia. Esagerando, questa cosa quindi si potrebbe fare nel deserto, insomma, senza bisogno dell'ausilio del circuito elettrico tradizionale e nell'acea. Poi, allargando questo esperimento, sì, Penso si potrebbe anche utilizzare ai margini delle grandi città per il trasporto magari di merci. Sicuramente, perché il problema oggi di alcuni tipi di energia alternativa, tipo l'eolico, tipo soprattutto il fotovoltaico, è l'accumulo, nel senso che i sistemi energetici alternativi di questo tipo sono legati al sole, alla luce, e quindi nelle ore diurne vanno bene, nelle ore notturne no, e quindi l'utilizzazione è alternata. La grande ricerca in tutto il mondo è proprio quella di creare degli accumulatori che durino a sufficienza per mantenere il ciclo delle 24 ore. L'altro pianeta. E l'altro pianeta prosegue, come di consueto, con l'intervista di Cristina Carpinelli, questa settimana all'attrice Lella Costa, che è in partenza per un lungo viaggio. Lella Costa. Costa, lei sta per iniziare un'avventura meravigliosa che molti sicuramente le invidieranno, un'avventura che si collega benissimo al tema dell'ambiente e della terra. Allora, la prima domanda è ovviamente dove si trova e che cosa sta per iniziare a fare? Lo racconti a noi, ai nostri ascoltatori. Ma in questo momento sono da poco arrivata a Palma di Mallorca perché raggiungo la barca su cui sono imbarcati al momento Giovanni Soldini, Oscar Farinetti, che sono i patron di questa iniziativa, e do il cambio, diciamo, ad alcuni compagni di viaggio che hanno fatto la prima tratta. L'impresa si chiama Sette Mosse per l'Italia, è una navigazione a vela da Genova a New York sulla rotta degli antichi emigranti, e noi compagni di viaggio siamo invitati a ragionare insieme anche a tutti quelli che ci vorranno seguire sul blog, anzi invito a farlo. Il blog si chiama Sette Mosse, Sette scritto in cifra, settemosse.it, e alcuni, insomma, per ragionare intorno ad alcuni temi, le sette mosse per l'Italia sarebbero le sette, come dire, risoluzioni o iniziative che ci sembrerebbero fondamentali per cercare di far uscire questo nostro paese dall'impasse in cui oggettivamente si trova. Ecco, quando si parla di sette mosse per l'Italia, si parla ovviamente anche di temi legati all'ambiente e di quello che l'Italia può fare per uscire dalla crisi investendo anche sull'ambiente. Ma sull'ambiente, sulle risorse e soprattutto direi che è un discorso sulla consapevolezza, sulla consapevolezza e sull'assunzione di responsabilità individuale. Ci sono sicuramente grandi temi, dal nucleare all'eolico, in generale al fotovoltaico, sono tutti temi di cui se possiamo essere invitati, o la privatizzazione dell'acqua che ci stanno particolarmente a cuore in questo momento, su cui possiamo essere chiamati a dare dei giudizi e delle opinioni, dei voti. Però è anche molto importante che ognuno di noi si assuma una responsabilità individuale rispetto al proprio stile di vita, credo, senza voler dare lezioni a nessuno, ma insomma ognuno di noi può cominciare a fare qualcosa oltre che impegnarsi perché le cose cambino a livello globale. E una di queste è sicuramente l'attenzione ai consumi. L'idea del consumare meno e meglio credo che possa cominciare a entrare a far parte del nostro quotidiano. Ecco, lei proprio come consumatrice e a questo punto le dico anche come madre, come padrona di una casa, quanto si è impegnata su questo fronte? Ma io devo dire che le mie figlie mi sono di grande stimolo, perché sia delle mie tre figlie, anche la maggiore che vive per conto suo è sicuramente molto attenta, le due che vivono ancora con noi sono attentissime ai temi dell'ambiente e continuamente stimolanti. Per dire, la mia figlia più piccola, che ha 14 anni, da qualche mese ha chiesto di non mangiare più carne e comunque di limitarne il più possibile il consumo, non tanto per una scelta di vegetarianesimo, come dire, globale, ma proprio perché si è informata e ha capito come quanto l'allevamento intensivo, oltre ad essere pericolosissimo per la salute degli animali e nostra, è uno dei motivi di maggiore inquinamento ambientale, insomma, più dell'emissione di gas nocivi delle automobili. E quindi ho continui stimoli a prestare attenzione a questi comportamenti. A fronte di comportamenti giovanili che ci vengono continuamente additati come irresponsabili, edonisti, superficiali e tutto quanto, io ne verifico invece moltissimi altri, appunto molto, molto consapevoli su temi, su battaglie che magari non sono stati quelli delle generazioni precedenti, ma ben venga, mi sembra che siano molto più attenti e molto più pragmatici e che soprattutto sappiano trovare i modi per riuscire a cambiare a partire dalla propria vita, a partire dalla propria quotidianità, e quindi monitorando i propri comportamenti prima ancora che quelli degli altri, che è davvero una svolta, no, in questo senso. Senta, una domanda invece relativa al viaggio che sta per iniziare a fare: quanto starà in barca a vela? E, insomma, io purtroppo ci posso stare poco perché appunto ho degli impegni per cui sbarco tra 5-6 giorni a Gibilterra, però insomma l'idea di fare dalle Baleari a Gibilterra è comunque molto emozionante, e il viaggio proseguirà poi fino a New York, dove si presume arrivi il 2 giugno alla barca, però appunto, come dice sempre il capitano Soldini, il mare non è nostra strada e fa quello che vuole lui, e lui ha dettato i tempi. L'idea poi è quella di presentare queste riflessioni appunto su queste sette mosse per l'Italia sia al console italiano a New York che poi, si spera, insomma, al Presidente della Repubblica, in modo che diventi un documento condiviso. Soprattutto, insisto, noi che siamo lì non ci riteniamo assolutamente i vatti di questa cosa, ma semmai i tramiti, cioè quelli che raccolgono e magari danno una forma alle proposte e suggerimenti che ci verranno da tutti coloro che avranno la voglia e la pazienza di seguirci. Siamo consapevoli che è un bel privilegio e ci godiamo un bellissimo viaggio, una bellissima esperienza, però le regole della barca sono: ognuno di noi come cibo non deve costare più di 4,50 euro al giorno per tre pasti, perché ci è sembrato giusto darci dei limiti e provare a dare un esempio e dimostrare che si può mangiare, magari anche bere bene e responsabilmente, senza per questo spendere delle cifre assurde. Grazie a Lella Costa e grazie anche a Cristina Carpinelli per l'intervista, e andiamo all'altra nostra rubrica, articolo 9, come l'articolo della Costituzione italiana. La Repubblica, dice quell'articolo, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Il microfono passa a Marco Carminati. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo in collegamento con noi il vicepresidente del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, il dottor Marco Magnifico. Buongiorno dottor Magnifico. Buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato ancora. Ecco, la sentiamo naturalmente a un cellulare, voi del FAI state un po' in ufficio e un po' in giro per l'Italia, non solo per vacanza, ma per controllare bene le vostre iniziative e tutte quelle iniziative che vi vengono segnalate soprattutto dagli italiani. Io faccio riferimento ancora una volta alla grande iniziativa del FAI, a una delle grandi iniziative del FAI, cioè ai luoghi del cuore, questo referendum che permette ogni anno agli italiani di segnalare all'opinione pubblica attraverso il FAI un luogo che sta a cuore, che va segnalato e che va salvato. Lei oggi ci porterà in uno di questi luoghi. Dove ci porta? Beh, è un luogo veramente lontano, ma un luogo mitico, è uno dei fulcri del Mediterraneo, cioè l'isola di Stromboli. Ah, l'isola di Stromboli, sull'isola di Stromboli vivono d'inverno circa 400 strombolani, ma moltissimi altri sono emigrati in questi decenni in tutto il mondo. E a Stromboli esistono due chiese, la chiesa parrocchiale e poi un'altra un po' defilata, che fu costruita a fine dell'Ottocento, proprio di fianco all'ultima grande colata lavica, che stranamente, perché di solito la lava va verso il mare, no? La grande sciara a fuoco di Stromboli, ma questa volta, a fine dell'Ottocento, un'enorme colata arrivò a lambire l'abitato. E la colata fu fermata da una processione, naturalmente, con la statua di San Bartolomeo, e la colata si fermò. Ecco allora che gli strombolani decisero di erigere una grande chiesa, ma veramente grande, cioè una chiesa che stupisce, perché è una chiesa a tre navate, a tre arcate, con un grande abside, con tutta la cupola decorata a fondo blu con le stelline d'oro, con un incantevole organo. Questa chiesa però, ahimè, a causa di un piccolo scossa di terremoto nel 2000, è stata chiusa, e naturalmente non c'è come chiudere un monumento per cominciare, perché la sua decadenza cominci, per cui è stato poi saccheggiato, la sagrestia saccheggiata, gli altari saccheggiati. E poi la cosa, e quindi molto cara agli strombolani, anche perché fu costruita proprio dagli strombolani, portando a mano pezzi di pietre, eccetera. Le donne portavano sulla testa dei canestri con le pietre che gli uomini poi mettevano una sull'altra. Certo. E così 9.000 firme sono arrivate al FAI. È straordinario, perché questi 400 strombolani hanno mosso tutti i loro parenti emigrati in tutti gli angoli del globo, e sono arrivate 9.000 segnalazioni, per cui non potevamo tirarci indietro. Quindi siamo andati a vederla e siamo rimasti stupefatti, perché è una magnifica chiesa con un grande atrio davanti, con un grande sagrato, molto fastosa anche, e nel campanile è stata ricavata una nicchia dove è stata posta questa miracolosa statua di San Bartolomeo. Certo. Voi del FAI, che naturalmente avete raccolto tante segnalazioni, ma avete anche una certa esperienza su come dirottare queste notizie verso l'opinione pubblica che conta, e in generale verso l'opinione pubblica. Ecco, che cosa si può fare per riportare questa chiesa all'antico fasto? L'opera dei luoghi del cuore è proprio questa: quando il sindaco di Lipari, quando il vescovo di Messina, quando la sovrintendenza ha saputo che 9.000 persone si erano mosse, che il FAI è sceso in campo, abbiamo fatto una conferenza stampa, immediatamente sono saltati fuori i soldi che prima non c'erano. Certo. Quindi è sempre questa la storia dell'Italia ed è questo il valore dei luoghi del cuore, perché proprio dalle segnalazioni della gente si mette in moto un meccanismo virtuoso che consente, qui non c'è da spendere tanto, c'è da spendere un 300-400 mila euro, non una cifra mostruosa. Certo. Ecco, e devo dire che l'assessore Missineo, assessore alla cultura, si è dimostrato molto sensibile, il sindaco anche abbastanza, il vescovo che è il proprietario, che fino all'altro ieri faceva finta di non sapere che c'è la chiesa, oggi non può più far finta. Ecco. Il parroco, che non è proprio, come dire, un gigante Golia munito di grande coraggio, si è per fortuna mobilitato anche lui, e devo dire che questa straordinaria piccola comunità ha raggiunto il suo scopo. Io spero che quest'anno, quando coloro che erano emigrati, che tornano ogni anno a Stromboli per le vacanze, vedranno che si cominciano i lavori, saranno molto soddisfatti della loro intraprendenza. Insomma, dottor Magnifico, una bellissima storia lei ci ha raccontato, anche perché una storia di costruzione di una grande chiesa fatta dagli emigranti. Noi sappiamo che l'Italia è piena, tra l'altro, di questi monumenti fatti da persone che sono andate lontano e hanno lasciato soldi, risorse, manodopera per costruire le loro chiese. È una storia di degrado che però immediatamente, attraverso questa operazione dei luoghi del cuore, è andata a risolversi, perché non... Non gridiamo ancora vittoria. Ah, beh, ecco, certo. I soldi non ci sono ancora in cassa, però insomma direi che da quello che si capisce il cantiere si aprirà. Ecco, naturalmente in questi, come dicevo prima, in questi anni di degrado, purtroppo la sagrestia è stata saccheggiata, gli altari pure, sono sparite delle statue, però non sono sparite le statue della processione, quindi direi che si può riportare la chiesa di San Bartolomeo, se non al suo splendore originario, a una buona dose di splendore. Insomma. Bene, allora speriamo davvero che queste cose vadano per il verso giusto. Io ringrazio il vicepresidente del FAI, dottor Magnifico, grazie. Grazie a voi e alla prossima gita. E alla prossima gita con il FAI. Grazie a tutti per l'ascolto. L'altro pianeta si chiude qui per questa settimana. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Vi ricordiamo, per scriverci, l'altropianeta@radio24.it, oppure potete scrivere a me direttamente, laura.bettini@radio24.it. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora.